che poi verso la sera le lampade stanno a arrivare proprio al bordo. È quello, bisogna andare in posti un po'. Magari non si fa una passeggiata, ma in posti un po' incontaminati, cioè in posti buoni, dai. Sì, in aperta campagna, come faceva mio padre. Mio padre andava in bicicletta nella zona di Arroghiero, era andato là per Arroghiero, là dove c'era la Driga, e da lui si entrava nella campagna, appunto, al centro, sapevamo a posto dove c'erano degli altri figli di e comunque pigliavo il diavolo. Appena è una follia, vero? Mio padre già mi faceva un po' di lumache, ma prendeva la busta piena, che trovava a casa una busta tutta piena, ma allora sì che ce l'era, ma adesso non è sia più come te prima, tutti i cosi così, alzavi i sassi, alzavi i sassi e trovavi i grappoli di mozzette, di cose, le mozzette a due a due attaccate. Ma ho fatto un sasso, c'è un padrone, mi è andata a consigliare dal tuo, e c'è andata, mamma mia. Un'altra volta, una di gatta e tartarughine piccole. Gaffa, gaffa. E come si è detto che venirà un bel. Come ti preparava, gruppo il bicicletta. Bicicletta. E allora? Che allora? Ma l'Andriga andava lì, no, stava, la bicicletta mio padre era un grande pedalatore, da giovane correva, la bicicletta, quindi ci aveva la passione, proprio andava anche a vedere i giri d'Italia, tutte queste cose qua, il giro di Sardegna, conosceva un po' di ciclisti che correva, si avvicinava pure, gli parlava il continentale, a centri di Milano e cose, gli parlava il dialetto loro. Addirittura un ciclista gli ha regalato il suo berretto. Era appassionato di ciclismo. Sia ciclismo, calcio, pugilà. E pure a me già piace. Il ciclismo non vede tanto, ma il pugilato... il ricordo come cavolo si chiama il calcio. Ma mio padre ci andava anche alle 3 di notte a vedersi, prima non c'era il video registratore, per registrarsi si andava a vedersi alle 2 di notte, poi domani andava a lavorare, non andava a nulla, ma si rappaitava. Cosa, non sa che trombe fino a che ora ti svegli e poi lo guardano. E poi ce n'è mia ora di... quanto dura? Dura un'ora il match. Più o meno dura un'ora, così un match. Vabbè. Sì, se li guardava quando proprio... mi piaceva proprio. Mi piaceva proprio girato il coso. Il calcio poi non se ne va vita. Il calcio era proprio fanatico. Si metteva l'auricolare con la radio, una reci e con lui ci aspettava il televisore. Mamma mia, tutto ti tirava, Eva, e mi ci va via. E fa la parola e faceva il caffettone. Meglio lasciarlo calmo. Dopo quando giocava l'Inter o l'Italia, un bulldog, poi tanto presente ce l'ha, stava così, no, proprio teso, toccato con la testa, proprio attento, cavolo, e come segnava, lo brincava, cadere e tutto li farà. È appassionato. Che... non piaceva nulla. No, Inter, mio padre era interista. No, l'interista è sfegazzato proprio. A Milano sono due le squadre, o Inter o Milan, no? È come a Roma, che c'è la Roma e la Lazio. Sono quelli che ti fanno la Roma e sono quelli che ti fanno la Lazio, così è lì. Quando mi sei dire, tipo, oh. Poi adesso sono buone tutte e due come squadra, sia il Milan che il loro. Ma l'Inter non venne, non perché, non quando era proprio diffusissimo, non faceva manco a parlare, ma mi ha ripetuto cosa, era cosa passione, mamma, e negli altri momenti potevi fare tutto quello che vuoi, ma quando ve l'avevi partite, e poi le due erano le cose, partite, e non volevo vedere cose spinte al televisore, sotto spegnendo. Prefa qualche scena che noi vedevamo, ci mandava a letto, lo sai? Forse un po' l'antica. A letto, e basta, e non devi fiattare. Tutti e due a letto, forse, almeno imparate a ridere di queste cose. Adesso strappo, strappo, non lo faccio più vedere il televisore, se fanno vedere ancora queste cose. Vabbè, siamo in un'occhiata. No, era molto severo su certe cose, non poteva sopportare la maleducazione, la cosa, non ne sopportava più le cose, anche se magari dentro di lui erano cose che lui non sopportava che venivano divulgate così, capito? Alla luce del sole, dai, che potevano vederlo anche i bambini e cose, ma non è che vedere cose pornografiche, tanto erano scene d'amore, cose così, non era di dimostrazione che si vedeva chissà cosa, Dove è Luca? Lucrezia. Aspetta, dove è Lucrezia? È Lucrezia Borgia. Buonasera. Qua c'è una roba al computer. Sto disinstallando la cam perché mi fa un programmino e la sto disinstallando, vediamo un po'. Allora, che si dice? Io mi si parla di parlamento, delle cose così superficiali, no, stavo raccontando di mio padre che era un bel tifoso dell'Inter, quel che è un bel girato e ciclismo soprattutto. E mi ricordavo che tuo padre era tifoso dell'Inter, l'avevi detto. Molto fortunato tuo padre, è arrivato con l'età. Mi caga a tutti. No, beh, quello è vero. Quello è vero. Vabbè, anche la mamma. La mamma è morta alla 60 sua, te l'immagini, a 96 anni. Sì. Ma come è tuo padre? Cappa. Cavolo, lui che era. Già, sai, quando era il tempo? Cioè, 30 anni, insomma, quasi un secolo. Invece il fratello a 93, però ha avuto la tumore, se no magari avrebbe vissuto ancora di più. Via. Questi tumori, mamma mia, non lo so. Faccio una vasta ricerca, poi sono di quattrini, adesso la manca, ma per che cosa? Non lo capisco ancora. Ehi Luca, ha scoperto una cosa più che un'altra. E perché il tifo non era così che faceva morire a tutti e cose, poi hanno scoperto l'antidoto e questo e quell'altro, e sono giunti i tumori, tanto guasto, scoprono una cosa e vedrà, siamo sempre così, adesso stanno di nuovo per le case di medicina. Giurati. Vabbè. Siamo di passaggio, ma qui a quel punto lì, cioè morire così, non so, non ho parole perché non... Cioè, proprio morire da merda, ecco, con una malattia di merda. Ma perché io la prima sono andato a cliente a portare la spesa? Praticamente il marito c'ha dopo che è andato in pensione gli è venuto l'Alzheimer, e da lì un tumore, e lui mi si pensa. Allegria. Poi sono andato in un'altra casa e ho visto questa signora che conoscevo bene da quando era più giovane, così la portavo la spesa, tutto quanto, lui si è sediato a da casa della figlia, così ha detto, ma cos'è, non ma lei adesso addormenta a metà, poi c'è l'Alzheimer. Mio padre fino all'ultimo ha vissuto bene, dopo gli è successo che è venuto questo liquido nei polmoni, non l'hanno voluto aspirare questi bastardi, e l'hanno fatto morire così, perché se no mio padre era lucido quasi fino all'ultimo momento. Gli ultimi periodi a casa faceva delle cose un po' strane, l'ultimo tempo. Si alzava di notte e mi diceva pronta la colazione. Gianni mi chiamavo, questo mi spaventavo, mi piazzavo di colpo, e cosa c'è papà? La colazione è pronta. Papà non è ora di colazione, siamo di notte, no, di notte siamo, prendeva si ricoricava. Oppure una notte mi chiamate e mi detto che volevo un bicchiere di birra. Casino. Quindi tu hai 10 minuti per me, perché sai che la racca non la posso installare, ma la fregatura. Non la puoi pensare in San. Mi fa fregatore, cioè stavo peggiando. No, non mi capisco. Non vedo il disco. Ma tu la camera ce l'hai a parte, ce l'hai inserita a porta? Sì, sì, è quando la messa sai che ho il CD e poi è partito, lo sai. No, ho trovato il CD, aspetta. Via. Vabbè. Si computa, ragazzi, un po' di spese, di cose, boh. Ogni tanto noi ci si brucia sempre quel cacchio di alimentatore, si brucia, scalda, adesso io ogni volta sto attento, faccio caricare la batteria, una volta che carica sta con l'alimentatore e poi la faccio scaricare, quando è proprio scarica lo rimetto, no, per non scaldare un po', eppure già l'alimentatore è fiammato. Io Asus. No, sai, ma come sono stata facile da dire? Cazzo, che palle. Ma la fregatura. Ma non fa brutto, sto. Sta posso installare. Magari c'è il metodo, che non lo sai. Magari se lo dice a Franco te lo fa. Gappa. E così è, l'ospedale, sai cos'è? I vecchi vengono trattati. Guai a capitare da anziani in ospedale, però qua non sono trattati bene. Io ho sentito medici dire, ma perché non gli fanno l'iniezione letale, che si è tanto cosa stanno a vivere qua a rompere le scatole, sono ricchi oramai. L'ha sentito il figlio, questo qua c'è, aveva la febbre a 40, l'abbiamo fatto in ambulanza, noi l'avevamo dentro. E il figlio era fuori aspettando, però c'era la porta sorpresa, l'ha sentito e ci hanno detto che è un dottore, ci ha detto pezzo di merda, ha detto un po' che ricordi. Lui è una persona umana, tu devi trattare come una persona umana. Chiamate il poliziotto che lo facciamo arrestare subito. Mi trattano. Poi appare quando l'ho portato, dice il cuore batte piano, questa età, questo dottore ci è venuto a dire la via, che l'ha accompagnato mia moglie perché si è detto male con il cielo della lavora. Il cuore batte piano, come dire, dopo il grippa, no? Questo lo giudice. No, non li considerano per niente gli anziani, non li considerano nulla. Pensare che ci devono diventare anche loro. Infatti. Lo stesso trattamento li devono riservare a questa gente, solo che loro hanno fatto i dottori, magari li conosci, li capisci, li trattano bene. Ma loro ritornano a riservare lo stesso trattamento che io ho visto uno andò a gridare, un anziano, gridando, i dottori passati a fianco non cagarlo nemmeno, mi sono dovuto avvicinare io per calmarlo, che cosa c'è? Gli ho detto, mi dica. Oh, ma devo giù, la coccano, la parola non mi fate di freddo, io te lo dico, se non l'ho mai avuto, se non ve lo giunta a ripidare. Io li so, capo, mi fate del male da grippa. Chissà cosa gli è successo, bro. Adesso ci aveva la coca non è infilato, cosa gli costava attaccare un freddo? Grazie. Che fanno un freddo, guardate, dolorifico, capo, che così gli passava il dolore, c'è un servizio, qui adesso sono questi dottori di giovani, gli infermieri che si bisticciano con le ossa. Una volta solamente c'erano le ossa e stavano bisticciando con l'infermiere, perché questi infermieri della professione hanno detto di fare il loro lavoro, che loro erano poco più di donne delle pulizie, non so, che da offesa, appunto, questa cosa mi sono cambiati. Prima erano in peggio ancora, cioè non si sa che era meglio prima o che era meglio avanti, per carità. Ma sono stati su ospedaliere, le osse sono praticamente fanno dei corsi, sono quelle che puliscono gli ammalati, per queste cose di rasano quando devono essere operate, fanno queste cose qua, però fanno dei concorsi interni poi e diventano specializzate, capito? Quindi quella che mette in fronte a casa non ci ha fatto il corso interno, sta in passata e adesso fare le iniezioni, può fare queste cose qua, stanno bene, ma non è lì. Perché adesso la cooperativa che le prende, poi una volta che fanno il concorso le prende proprio l'ospedale. Saranno proprio quanto voi, ma un carattere non c'ha un padre che fa solo questo. Lucia Giove, ma ragazza d'oro, non perché la conosco, però io penso che i pazienti con Lucia me ne parlano sempre bene, ma sono state ricoverate persone di Porto Torres dove ci trovo la Lucia. Ma me ne parlano sempre bene, dico, ah, quella sì che si fa bere in gamba, ma veramente è simpatica, che ci faceva ridere e poi. Certo ragazza. Ma no, magari lei è così, ma ce ne sono che per carità non vogliono visti, dai. E sono nervosi anche perché a una sola tocca fare il notturno e per dire con 14 camere di malati. Loro si nervosiscono per quello, li chiamano in 50 alla volta, per forza per la fine non voleva dire più tu, vedi ti ripanni loro anche. C'è poco personale anche all'ospedale, quello lì, però già ci sono che hanno proprio la grazia di pidare, per carattere, non sopportano nulla, anche perché poi se si comportano troppo bene ne approfittano, capito? Sì, ci vuole carattere, ci vuole, quei voti lì. Io penso anche invece il contrario, io penso che bisogna essere un po' sensibili. Chi fa questo tipo di lavoro deve avere un po' di sensibilità nei confronti del prossimo, pensando che un giorno o l'altro potrebbe succedere anche a loro la stessa cosa, capito? Io quando ero ricoverato in ospedale in traumatologia, che avevo il busto, che potevo camminare, mi ricorderò sempre che io scendevo in pronto soccorso, non mi piaceva stare in reparto, me ne scendevo in pronto soccorso e aiutavo giù. Una volta è arrivato questo tipo della Maddalena, che aveva avuto un incidente con la moto, e mi hanno spostato praticamente a polpaccio. Cioè praticamente è entrato il paraurti della macchina che allora erano in alluminio o roba del genere nel polpaccio, e l'hanno proprio tolto il polpaccio, l'ha spostata perché era Brandetti in semplice, aveva la frattura, l'hanno operato, aveva un po' di frattura del sosso. L'aveva avuto con un MV Augusta, incidente, me lo ricordo ancora. Questo ragazzo qua, io l'ho assistito tutta la notte, l'hanno messo nella camera, e gridava, e allora mi sono avvicinato, e ho detto, dai, dimmi che cosa vuoi che ti aiuti io, girami la manciale, mettimelo dritto, io mi fa male la schiena, non riesco a muovermi, l'aiutavo, lo giravo, lo facevo, e allora poi siamo diventati molto amici, è stato operato, io andavo a trovarlo in ospedale, mi dava che mi avevano dimesso, e niente, un giorno sono capitato da andare alla Maddalena a fare la visita di lei, mi ha trovata la Maddalena, io non me lo ricordavo più anni fa, cazzo è venuto in corso, ma tu capra giallo, cazzo, ma che questo? Gianni, tu sei la mia salvezza, il mio angelo custode, questo e quella. Oh, lo sai che non mi ha fatto là, in treno, mi hanno voluto accompagnare loro in mano. Ma come aiutava? Perché te lo permettevano di aiutare? Sì. Io già da allora facevo volontariato, quindi mi conoscevo, facevano tutti che mi conoscevano, quindi quando arrivavano in sala e coso, li assistivo per coso, a volte mi scendevo già pronto soccorso, però più che altro quando venivano in reparto, io ne ho visto uno cazzo, ho visto questo tipo che hanno portato senza di cazzo, e dentro ce l'avevano dentro una busta con la ghiaccia, questi tipi. Come l'ha visto l'infermiera, spero sta l'infermiera. Che sarò là. Comunque, si dico sempre che fa quel lavoro deve affrontare tutto, non puoi venire, dai. Devi pensare che quello è tu, quello lì, devi cercare di dare le cure. Se vieni, cazzo, non si adatta. Sì, questo è il mio pensiero. Se vieni non si adatta a fare quel lavoro, cioè, e non stai assistendo nessuno, stai solamente peggiorando la situazione. Allora, in traumatologia non me ne penso al tipo voluto staccato, ma quanto ci mettesse l'operazione in corpo. E io ho pensato all'infermiera, perché se non andate in bagno poi a svenire, capito? L'ho vista bianca bianca, l'ho sentita, che ho dovuto fare le interne. E ho chiamato un'altra infermiera, l'abbiamo caricata su una lettiga, l'abbiamo alzato le gambe, e c'è stato un bel po' di a riprendersi. Ma sicuramente vi darà poco. Era di quelle novizie, era di quelle infermiere che stanno imparando, che fanno piloncini e cose. Mamma mia. E ci scendevo anche giù, scendevo a pronto soccorso a vedere che bastava la cosa, ma io me ne stavo sempre giro all'ospedale, una volta mi ha trovato il dottore ogni cacciatone. Ah. Per me te lo permetto, detto, però tu sai dopo che passano le visite, no? Sai che puoi uscire se ce la fai, poi dici, a me mi hanno anche sbattuto fuori dall'ospedale, lo sai, lo so che mi fanno operare. Andavo in giro con la chiave del sangue che perdeva le cose, siamo in giro e cose, l'ha visto il dottor Rossi, ma mi ha detto, lei è dimesso da oggi, visto che si tratta per un uomo deve stare a letto e cose, detto, beh lì, mi aspetta la sala, ma io me ne vado, se mi si prende la responsabilità del prossimo succede qualche cosa, stia attento perché sono affari suoi. E se ti va fatto? Sì, ma buttato fuori allo scolato. Vabbè, tu vedi non la comprendi. Senti Giuseppe, il fuon di scala. Naturale con la propagazione. navigare.